Tempo di sport con Carlo Genta. Ciao a tutti, bentrovati. Oggi Franco Piantanida, autore di questo programma, e Mauro De Angeli dalla regia mi hanno riempito lo studio di secchi, strofinaci e fazzoletti. Mi hanno detto che servono per raccogliere le lacrime dei napoletani per un calendario crudele, facendo finta, poi passando sopra al fatto che la crudeltà, volendo, riguarda anche il Milan e l'Inter, che incroceranno il Napoli a cavallo dei turni di Champions League. Ma ieri sera a Sky, io non avevo visto male, cosa dite? Nell'incoronare già da tempo Aurelio De Laurentiis, protagonista assoluto, con tanto distacco di questa estate sportiva. Ieri sera a Sky non c'è stato un sorteggio, ma il più riuscito dei reality. Piace per Federica Pellegrini. A proposito, cioè, ci sono anche notizie su questo flirt con Magnini, perché mi sembra che queste cose stiano interessando più delle medaglie. Federica, che oggi è riuscita a trascinare in finale la 4x200, stasera deciderà se fare gli 800 oppure chiudere qui e tornare a casa. Mi dispiace per lei, per i nuotatori, per tutti quanti, ma l'immagine icona di quest'estate è Aurelio De Laurentiis, che se ne va sulla vespetta dopo aver, senza casco naturalmente, novello Easy Rider, dopo aver fermato uno sconosciuto, il più riuscito dei reality. Allora vi riassumo le puntate. De Laurentiis intervistato prima del sorteggio, sentiamo cosa aveva detto. Ho chiesto proprio ufficialmente a Beretta di tutelare le squadre che devono giocare in Europa, quindi di creargli un calendario ad hoc, perché altrimenti se il calcio italiano deve essere un calcio che recuperi una certa potenza e una certa presenza in Europa, non si può poi creare un campionato ad uso e consumo di nessuno, ad uso e consumo di qualcuno che ha l'interesse magari di creare degli ostacoli a chi potrebbe crearli a lui. E quindi nel passato io credo che non si sia usata la cautela della casa nostra, perché la Lega ci si è dimenticati molto spesso che è la nostra casa, i regolamenti, e questo secondo me da quest'anno credo stia un po' tornando di moda, o forse per la prima volta si sta creando questa moda, che è poi la moda della correttezza. Sì, perché De Laurentiis da tempo a questa fissa, no? Napoli, un complotto chissà tra chi per fermare il fastidioso Napoli in vista del prossimo campionato, lui ne è convinto. Tanto ci sono ascoltatori che già hanno cominciato a mandare i loro sms, spero poi telefoneranno anche all'800 24 00 24. Messaggi invece, Omar da Bologna, già prima dell'inizio del programma: sbaglio o sono già iniziate le riprese del prossimo cinepanettone? Natale a casa De Laurentiis. Secondo me, raccolgo qui il suggerimento di Franco Piantanida, lo faccio mio, il prossimo sarà Natale in Lega Calcio, che non sarebbe male. C'è Marco che scrive: Aurelio De Laurentiis presenta Will Hunting 2, genio ribelle, diretto, interpretato e prodotto da se stesso, naturalmente nei migliori cinema. Invece un altro ascoltatore mi dice: oggi sarà entusiasta lei, Genta, io, del suo idolo buzzurro De Laurentiis. Avanti così, l'importante in questo mondo è la maleducazione, triste dentro. Credo che triste dentro sia riferito all'ascoltatore stesso, perché se non si diverte con queste cose è triste dentro sul serio. Ma torniamo alla ricostruzione dei fatti. Dunque, De Laurentiis, casa nostra, ho già parlato con Beretta, e quindi nell'interesse del calcio italiano le grandi, tra cui il Napoli naturalmente, beneficeranno di un occhio di riguardo nei turni a cavallo della Champions League, che poi non si vede quando si dovrebbero giocare queste partite, no? Perché alla fine mi sembrano date abbastanza ristrette, con 5 turni infrasettimanali. Comunque, ha detto così, poi Tania Zamparo clic sul teleschermo, sul bottone virtuale, e parte il calendario. Prima giornata gioca con De Laurentiis, gioca con il Genoa gemello. E allora dice questo: Napoli-Genoa. Contentissimo, perché è una partita. Contentissimo. Sì, perché è una partita abbordabile, a parte che io ho sempre sostenuto anche l'altro anno che la prima partita. Una partita abbordabile. Che no, ma io dico l'altro anno, cioè, meglio incontrare il Milan, l'Inter, la Juventus alle primissime. Perché in quel momento lì, secondo me, se uno ha fatto una buona preparazione, ha fatto un buon ritiro, hai tutte le chance, si può approfittare. E beh, meglio incontrarla le primissime. Terza giornata, il 18 settembre, dopo il debutto in Champions League, 13-14 settembre, ecco Napoli-Milan. 25 settembre Napoli-Fiorentina, subito dopo c'è la Champions, 27-28 settembre, e il 2 ottobre, indovinate un po', Inter-Napoli. Non basta, 1-2 novembre si gioca la quarta giornata di Champions e 4 giorni dopo a Napoli arriva la Juventus. E lì succede il finimondo. Aurelio Nominato lascia volontariamente la casa di Sky. Siamo delle teste di cazzo, va bene? Oh. Aurelio. Non me ne frega un cazzo. Voglio ritornare a fare il cinema. Siete delle merde. È l'Italia che si sente presa in giro. Sono rimasto in questo paese. Mi vergogno di essere italiano. Per la verità mi sono sempre vergognato di essere italiano. Chi non ride è triste dentro, lo confermo. 800240024. E Aurelio quindi che fa? Se ne va, esce da Sky inseguito da Cellino che si sta sbellicando dalle risate, ferma un ignaro passante, un tizio che passa in vespetta, gli chiede un passaggio e senza casco va via, come Audrey Hepburn in Vacanze Romane. O se preferite come Pippo Franco in Giovane una coscia lunga. Oh, non si ferma nessuno. Vuoi vedere che pensano che c'ho un giradito? Venga giovanotto, venga! È molto che aspetto un passaggio? No, no, quando sono venuto qua ero ragazzino. Presto, coraggio! Grazie. Svelto, svelto che si parte! Mi sembra che ormai sia puro cinema, no? O meglio un'estate da cinema, quella del Napoli di De Laurentiis. Qui serve uno che sa di cinema, ma che sia anche, come si autodefinisce, un selvaggio tifoso del Napoli. Boris Sollazzo, eccolo qui. Buongiorno, salve. Boris. Ciao. Salve Carlo, un buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Devo dire che secondo me il buon De Laurentiis potrebbe assumerti, perché il montaggio che hai fatto di musiche, pezzi di repertorio del nostro cinema, vale davvero molto più dei cinepanettoni che normalmente produce. Franco Pietarina, lui è la mente perversa. Senti, ma io ho detto prima, sono qui con gli strofinacci e i fazzoletti per raccogliere le lacrime dei napoletani, ma tu piangi per questo calendario? Ma guarda, allora, non piango perché non mi stupisce. L'unico calendario degli ultimi anni relativamente buono, se un calendario può essere buono, è stato proprio quello dello scorso anno, che era abbastanza equilibrato. E questo oggettivamente bisogna dare atto a De Laurentiis, che è un calendario che sembra scritto dal suo peggior nemico, questo non glielo si può negare. Credo che in questo sia accomunato anche l'Inter, che probabilmente forse deve pagare nel prossimo campionato lo scudetto non restituito, perché sì, l'Inter si ritrova con le stesse partite difficili dopo la Champions League e in più con un finale di campionato abbastanza delirante, mentre Juve e Roma abbastanza evidentemente sono state favorite. Sì. È chiaro che De Laurentiis, che è entrato nel 2004 nel calcio e che nel 2006 ha visto accadere Calciopoli, non può non pensare che se si raffreddavano in frigorifero le palline degli arbitri non si possa non pilotare anche un sorteggio, voglio dire, siamo in Italia. Ma lui ha questa fissa del Napoli che dà fastidio, del disegno perverso, della mano oscura che vuole fermare la corsa del suo ciuccio. Mi sembra un po' eccessivo, non credo che il Napoli dia fastidio ad alcuno. Certo è che, no, vorrei fare con te questo discorso subito dopo il traffico. Certo è che, a mio parere, il Napoli l'anno prossimo rischia forte, perché a questo punto è molto esposto, c'è troppo clamore intorno al Napoli e questo clamore diventerà pressione quando si comincerà a giocare. E aggiungo il fatto che storicamente, che nello sport, una delle leggi dello sport dice che è molto più difficile arrivare che non restare lassù in cima. Allora, Boris Sollazzo, amico mio, faccio notare che l'anno scorso il Napoli fece 5 punti in 4 partite all'inizio con Fiorentina, Sampdoria, Bari e Chievo. 2 retrocesse, una quasi e l'altra che non è andata benissimo. Ma il Napoli avrà così tanta pressione? È molto esposto a questo punto, complice il cinema di De Laurentiis? Ma Ma guarda, De Laurentiis sta lanciando il marchio Napoli, voglio dire, dare del cretino a Messi o dire che fa la figura del cretino a Messi è chiaramente un modo per farsi conoscere a Barcellona. Io ero a Madrid quel giorno, sì. Hanno visto la mia polo del Napoli, mi hanno indicato dicendo De Laurentiis, De Laurentiis. Questo fa capire che l'uomo è uno stratega, anche se può sembrare rozzo in alcune sue uscite, ha capito secondo me come funziona il mondo del calcio, diciamo che volendo fare un azzardato paragone, è un Rossi o un Anconetani che però ha studiato e sa come fare i soldi con questa cosa. Ieri però ho avuto l'impressione che questo, che lui forse un colpo di scena lo stava coltivando, ma si è stato preso di sorpresa, perché il Napoli-Genoa, in cui dice addirittura una partita abbordabile, e abbordabile non è, è quello di un uomo tranquillo a cui probabilmente hanno detto: stai tranquillo Aurelio, staremo attenti. E invece là qualcuno deve aver sbagliato qualcosa, perché al di là di tutto adesso mettere Napoli e Inter in quella condizione vuol dire perdere ancora più punti UEFA, nel senso che è un fatto, in Inghilterra e in Spagna prima e dopo la Champions League non ci sono partite di cartello. Il Barcellona al massimo giocava col Getafe o proprio col Siviglia quando gli andava male prima, sì, o dopo una partita di Champions. In questo l'Italia è un po' autolesionista. L'errore secondo me di marketing, e qua io ci vedo la rabbia perché lui di solito non sbaglia mai in questo senso, è sicuramente arrabbiarsi per il Napoli e quindi farsi passare per una provinciale. Il Napoli è una grande, quindi come non si lamenta l'Inter, forse non si deve lamentare solo il Napoli. È quello che ho detto, quello che ho detto prima, Boris, perché questa perversione del calendario vale per il Napoli, però se il Napoli è alla pari del Milan e dell'Inter dovrebbero lamentarsi anche quelle due, insomma, perché se hanno subito Milan, lo stesso trattamento. Non sono tanto d'accordo, il calendario del Milan mi sembra un calendario più semplice. Molto più semplice. Mi sembra molto strano il calendario di Napoli e Inter comparato a quello di Juve e Roma, per quanto un computer possa essere casuale, sono due calendari completamente diversi e insomma, volendo fare appunto il dietrologo calcistico, anche se mi dà un po' fastidio, l'Unicredit della Roma e l'Agnelli furioso della Juventus forse avevano bisogno di qualche contentino. Questa è bella, piacerà agli ascoltatori, non so cosa ne pensano. 800 24 00 24. Quindi non sei preoccupato per il Napoli? Gli scricchioli di mercato intorno alle superstar arrivati dopo la tormentata vicenda Mazzarri, tutto questo non ti preoccupa? No, io credo che loro due siano preoccupati. Se Mazzarri se ne voleva andare era proprio perché diceva: adesso mi chiederanno lo scudetto e io ho una squadra con cui qualsiasi altro allenatore sarebbe arrivato sesto o settimo l'anno scorso. Ed è preoccupato sicuramente anche De Laurentiis, perché sa che si gioca molto del suo marchio, della sua società, del suo futuro nel calcio. Adesso è la prova di maturità. Io pure sono preoccupato, ma sai che c'è un tifoso, anche se ho fatto anche il giornalista sportivo e continuo a fare il giornalista sportivo, dopo essere stato in Serie C non si può preoccupare di poter arrivare settimo o ottavo l'anno prossimo. Ha passato già il peggio, ha già passato la sua guerra, quindi può tranquillamente essere un po' più sereno. Di sicuro il Napoli adesso non ha più il fattore sorpresa dell'anno scorso, quindi un po' preoccupato sono, perché potrebbe questo vanificare l'ottimo lavoro secondo me anche sul mercato che è stato fatto, l'eccessiva pressione. Però mi sembra che i tifosi siano molto più maturi di un tempo, perché sostengono il loro presidente, cosa che nel calcio non capita molto raramente. Masaniello De Laurentiis, capo popolo assoluto, lo preferisci il fuggitivo Easy Rider? Bah, io devo dire che è stato molto poetico quel momento in cui ferma uno sconosciuto e se ne va. Io poi la mia cinematografica non, da Moretti a Audrey Hepburn, insomma, non ha potuto avere un momento di gratificazione. A me piace, nel senso che mi diverte, è uno showman, è sicuramente il miglior presidente della storia del Napoli. Ed è un uomo molto intelligente, quindi non dice mai delle cose a caso, anche se spesso e volentieri gli stolti pensano che lo faccia. Se vi andate a vedere tutte le dichiarazioni di De Laurentiis, non è mai stato casuale. Quello che sembra uscire dalla bocca di qualcuno che non sa controllarsi invece ha sempre un obiettivo, è molto più intelligente di come lo fanno. Ieri credo abbia perso la pazienza, perché qualcuno doveva avergli assicurato qualcosa che poi non è successo. Il vero erede di José Mourinho, lo sostengo da tempo. Ma comunque io devo ancora vedere sul campo il Napoli con il pistolero Cavani che si conferma a quota 25, cosa non semplice, con Kiruak, Lavezzi, lo scapigliato, il poeta maledetto che riesce sempre a fare la differenza, il moicano Hamsik che metabolizza Ngoi a Rospo per non aver cambiato squadra come era magari nelle sue idee. Devo ancora vedere tutto questo, perché ripeto, confermarsi, e tu lo sai bene, è molto più difficile che arrivare là in alto. No, assolutamente sì. Io consiglio, anzi, se Aurelio, credo che ci senta perché è molto interessato, insomma, alle vicende economiche, alla programmazione di Radio 24, io continuo a consigliare un Maxi Lopez che possa entrare al posto di Cavani, perché quest'anno, se anche Cavani si ripetesse, non credo abbia il fisico per reggere un altro anno senza sostanzialmente vacanze. Quindi credo che sicuramente serva un altro attaccante, e poi serve un grande Mazzarri, perché come hai detto tu, il Napoli non è nell'Inter e nel Milan, terzo ci è arrivato l'anno scorso e dovrà ripetersi, lasciamelo dire, senza le coperture che hanno le grandi, che vuol dire un'abitudine alla pressione maggiore, vuol dire degli arbitri magari un pochino più concilianti, vuol dire tante cose, insomma, non parlo di complotti, parlo solo di un'abitudine di essere proni al potere costituito di chiunque abbia potere in Italia, insomma. Senti Boris, prima di salutarti facciamo salire a bordo anche qualche ascoltatore, così ci divertiamo un po'. Voi col casco, però. Angelo da Napoli col casco, Sì, buongiorno. Buongiorno. Posso? Sì. Sì, buongiorno. Volevo dire, io naturalmente sono tifoso del Napoli, ritengo che De Laurentiis, diciamo, sia molto meglio di Ferlaino, Corbelli, eccetera, e quindi abbiamo già fatto un passo avanti come società. Ritengo però che sia il sistema calcio a essere malato, e che mi sembra strano che, diciamo, persone con una capacità critica notevole, quale siete, non dico i giornalisti napoletani, che siete, diciamo, che i giornalisti napoletani si sono sorbiti Ferlaino per 30 anni, sicuramente, diciamo, avevano qualche problema e ce l'hanno ancora, secondo me. Ma voglio dire, i giornalisti che stanno al nord, come lei per esempio, non si accorgano che quelle che si sono le riunioni in Lega Calcio sembrano più le riunioni dei Soprano che le riunioni di una società, diciamo, di presidenti di squadre di calcio, e come tali a volte si concludono. Ah, io, diciamo, ho proposto Natale in Lega Calcio come prossimo cinepanettone, ma al di là di questo, fuori dallo scherzo, hai sentito Boris sul Lazio? Servivano i fazzoletti e i secchi per raccogliere le lacrime. Ma ha sbagliato proprio perché forse ha dato un segnale di debolezza, come dicevo prima, però insomma, sai che non sono troppo in disaccordo con l'ascoltatore, sì, che è stato colorito, però effettivamente i personaggi che stanno in Lega spesso sono buffi, anche proprio fisicamente. Pensa a Gagliani, pensa al Cellino che rincorre De Laurentiis, tra l'altro tra i due non c'è neanche tanto buon sangue, quindi sono un po' personaggi da operetta, ecco, proprio da soprano. Certo, dire. Sì, è un gran bel teatrino, ed è per quello che io mi diverto così, perché come fai a parlare seriamente insomma in modo così quasi cupo di queste cose. Sono cose di cui divertirsi, secondo me. C'è ancora Boris? Non c'è più, purtroppo è caduta la linea, lo ringraziamo comunque, ma anche perché volevo fare una domanda. Lui è stato nuotatore pallanottista, Boris Lazzo, oltre che critico cinematografico di rilievo oggi, e volevo chiedergli qualcosa sulla nazionale di pallanuoto che sta per giocare. Giacomo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. No, io sono in disaccordo totale con quello che è stato detto. Cioè, oggi in Italia si accetta il fatto che sia tutto precombinato, sì, e va bene, allora è tutto precombinato, spegniamo i televisori, non andiamo più allo stadio, guardiamo il Grande Fratello, e finisce lì. O se no basta, perché il fatto che si dica che il Napoli dopo la Champions incontra il Milan, contro l'Inter, ma anche il Milan e l'Inter incontrano il Napoli, sì, non è una passeggiata prima. Cioè, ma come si fa a continuare a pensare dietro queste dietrologie? No, poi io non credo che poi i calendari abbiano un peso così influente. Esatto. Ma poi lo chiederò dopo che ci fermiamo siamo fermati per la borsa, lo chiederò ad uno che ha giocato nelle quattro principali squadre italiane, almeno all'epoca, e vorrò proprio chiedergli se quando uscivano i calendari c'era tutta questa attenzione nello spogliatoio. Volevo invece salutare Boris Solazzo, che è tornato e è caduta la linea. Volevo salutarti, Boris. Probabilmente era il potere della Lega Calcio che ti ha tagliato i fili, ti ha tagliato è Beretta, Gagliani che ti ha tagliato la comunicazione. Senti, ma tu che hai giocato a pallanuoto, sei stato un nuotatore pallanottista, giusto? Sì, ecco. Non so come lo sai, però... Ma quante cose sappiamo qua, abbiamo gli agenti segreti ovunque. Come la vedi sta storia della Pellegrini che vince l'oro, ma adesso siamo tutti più interessati a capire con chi esce? Beh, ma meno male comunque, io non sono molto moralista in questo, del nuoto non si parla mai, degli sport acquatici non si parla mai, se c'è un personaggio come lei, ben venga, l'importante è che peggiori il suo agonismo, ma mi sembra una ragazza di una grinta. Di una grinta straordinaria, e mi sembra che le piaccia pure, quindi va bene così, insomma, stare al centro dell'attenzione. Ma io sono d'accordo, nemico di ogni demagogia o perbenismo, è chiaro, se vuole mettere in piazza i suoi affari, noi siamo qui pronti a parlarne con il prurito, insomma. Invece, scrive sul blog che è finita con Marin, fa tutte quelle sceneggiate. Normale che ne parliamo, senza fare troppo i sofistici, come diciamo a Milano. Invece la nazionale di pallanuoto che gioca alle 3, quindi andiamo a vederla dopo il programma, che dici? Sono abbastanza agitato, devo dire, perché mi sembra che finalmente si sia ritornati al livello di una decina d'anni fa, con una squadra, ora se vogliamo, mazzarriana, senza grandissime stelle, ma che gira come un orologio e con questi grandi tiratori. È la prova di maturità, se si vince questa si può vincere anche il mondiale, ma soprattutto si può ritornare grandi. Se invece si perde si potrebbe interrompere un processo di crescita, quindi come puoi immaginare mi metterò in costume a tifare davanti alla televisione. Grazie Boris, è stato un piacere. Anche per me, quando vuoi. Un abbraccio a Boris Sollazzo. Adesso è il tempo di fermarci per la borsa dopo aver letto questo messaggio, perché tutta la settimana che proviamo a cercare notizie su Mino Raiola desaparecido. Magari ci ha visto giusto Andrea, che scrive: trovato Raiola, è l'autore dei testi di De Laurentiis. Mentre nasce un Giro di Padania di ciclismo voluto da Bossi, inserito nel calendario dell'UCI e che si disputerà a settembre, se ne sentiva davvero la mancanza di questa. Mentre Branca dice che con Tevez c'è stato solo un incontro assolutamente fortuito su una spiaggia, ci siamo trovati lì, come stai Carlitos? Tutto bene? Come mai? Cosa fai qui? Ti piace il tempo? Ti piace il posto? Insomma, incontro fortuito, e Branca aggiunge: non ce ne saranno altri. Mentre ci sono le magliette, ho visto prima le immagini, sulle bancarelle di fronte alla Pinetina ci sono i magliettari, ovviamente abusivi, ma tanto chi se ne frega. E ci sono già le magliette con stampato il nome di Tevez, figuratevi un po'. Mentre è stato un incontro fortuito e non ce ne saranno altri. Branca dice anche che non ci sono state offerte per Casemiro e Lucas, che con Capozzucca non si è parlato di S del Genoa, non si è parlato di Thiago Motta, di Palacio, ma piuttosto della possibilità di prendere un giocatore che possa essere utile sia al Genoa che all'Inter sul modello dell'operazione Boateng. Insomma, un giocatore in leasing. Siamo a questo punto, se Branca dice la verità. 800 24 00 24, serve un bel camion di fazzoletti secondo Ale da Milano, secondo Giordano da Macerata, De Laurentiis da Buon Napoletano, Chiagni e Fotte, secondo Giovanni da Torino in linea, glielo chiediamo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Chiamavo perché, insomma, mi avete appassionato voi al personaggio di De Laurentiis, se devo dire la verità. Forse senza di voi non mi sarei preoccupato e reso voglioso di chiamarvi. No, sì. Io notavo in queste settimane un atteggiamento un po' contraddittorio, nel senso, mi piace il De Laurentiis quando fa la campagna per trattenere Hamsik assolutamente a Napoli, per fargli rispettare il contratto contro un certo tipo di logica del mercato, dei procuratori e insomma delle grandi squadre. Non mi piace il De Laurentiis che insomma pensa soltanto al suo orticello, che fa del complottismo. Esatto, e ho trovato poi insomma l'atteggiamento un po' migliore, quello di Cellino che a commento poi a fine sorteggio a domanda: ma allora come le sembra il sorteggio? E lui ha detto: ma chi l'ha visto? Anche perché bisogna vedere poi durante l'anno come vanno, insomma, ma è normale, ma io credo comunque seriamente che l'importanza del calendario sia abbastanza sopravvalutata. In linea di massima, per le grandi, incontrare le squadre che corrono per la salvezza si può dire possa essere abbastanza rischioso, perché comunque, come sappiamo, spesso ci sono piccole che partono forte per mettere fine in cascina. Anche questi magari sono luoghi comuni, però la storia recente dimostra come le prime giornate siano particolarmente insidiose. Passate le prime giornate, passato settembre, io credo che il calendario abbia un'importanza molto relativa, perché prima o poi bisogna giocare con tutti, e tant'è. stupisce il derby di Milano collocato davvero in coda, come mai era successo nella storia penultima di campionato, e del girone d'andata si gioca a gennaio, e la penultima di campionato complessiva, che potrebbe portare a un derby di Milano che magari è uno spareggio per lo scudetto, come l'anno scorso ad esempio, oppure quando pure era stato più anticipato, oppure ad un derby di Milano che non conta un tubo se i giochi sono già fatti. Trovato ieri Raiola dopo tanto tempo, era in lega al posto del computer a fare i calendari, scrive un ascoltatore. Marcello da Milano, buongiorno. Buongiorno carissimo, complimenti sempre per la trasmissione. Grazie. Lei che è una persona molto diretta, ecco, anch'io mi collegavo al De Laurentiis, che tra l'altro è un personaggio che anche mi è molto simpatico, però noto da un mesetto a questa parte che si sta facendo un suo show personale. Vorrei capire, cosa c'è dietro, perché non mi sembra un atteggiamento molto positivo. Guardi Marcello, lo diceva bene prima Boris Sollazzo, in questo modo fa molta pubblicità al prodotto Napoli. Dall'altro lato però, attenzione, perché crea anche molta pressione sulla squadra, perché queste uscite così strioniche secondo me potrebbero portare ad un Napoli carico di pressione quando si comincerà a giocare a calcio. Certamente ha fatto fin qui De Laurentiis ha fatto grosso modo del marketing. Certo, senta, posso mi permettere una battuta? Sì, due. Magari mettersi il casco anche quando vai in moto, perché, guarda, ma a me dà la multa se non mi metto il casco. Anche a me. Arrivederci Marcello. Volete salire anche voi con il casco allacciato naturalmente? Visto che la vicenda Raiola appassiona, abbiamo mandato sulle piste di Mino addirittura Montalbano. Ma non ho idea, questo dovete chiedere a loro, questo non ve lo posso... non ho idea. Non abbiamo idea nemmeno noi di dove sia finito Mino Raiola. Le ipotesi sono tante. Ieri Paolo Bargiglio ci diceva che è viverotto insieme a noi e che in questo momento, però, contrariamente al passato, non ha bisogno di montare casini per fare del bene ai suoi assistiti, per fare il gioco dei suoi assistiti. Mentre, sempre per quanto riguarda le notizie di oggi, al momento non ce ne sono moltissime, con un mercato che mi sembra discretamente impantanato. Ci sono però Sissoko e Sirigu che stanno per arrivare alla corte di Leonardo. Oggi firmeranno. Sissoko firmerà un contratto di 3 anni per 7 milioni di euro più 1 milione di bonus, mica poco, cosa dite? Sirigu verrà ingaggiato per i prossimi 4 anni e il suo contratto è stimato intorno ai 3,5 milioni di euro. Paris Saint-Germain estremamente granoso, ma questo insomma lo sappiamo, perché altrimenti Leonardo con il cavolo che sarebbe andato là. Dunque, per quanto riguarda il nuoto invece, vi do anche al volo, visto che siamo entrati nella pagina della cronaca, vi do al volo anche i risultati di oggi con la delusione di Federica Pellegrini. A proposito di Federica Pellegrini, dicevamo prima che questa storia con Magnini interessa moltissimo. Ebbene, è stato intervistato anche Filippo Magnini sull'argomento. Sono molto dispiaciuto, Federica si è appena... intanto gli cresceva il naso, sono molto dispiaciuto che Federica sia appena lasciata con Luca ed è più facile accostarla a me che a qualcun altro, ha detto Magnini, il quale poi ha aggiunto: purtroppo adesso devo risolvere delle cose quando torno a casa e mi dispiace che sto lontano. Queste parole abbastanza misteriose del velocista ormai in declino del nostro nuoto, ex primatista mondiale dei 100. Invece chi è tutt'altro in declino è Ryan Lochte, che forse ha preso il posto di Michael Phelps, anche se questo mondiale dice che ha preso il posto di Michael Phelps. Oggi l'ha di nuovo battuto stampando il record del mondo nei 200 misti, nei 100 stile libero. Magnussen ha vinto l'oro, quarto Cielo, settimo nostro Dotto, che comunque ha fatto un gran tempo. Torniamo invece al calcio per salutare e ringraziare un amico, Aldo Serena. Ciao Aldo. Ciao a tutti voi. Senti, una domanda che ti devo fare, ma quando eri giocatore c'erano i calendari? Li guardavi, poi ti intervistavano e tu dicevi: ah, difficilissimo, questo è un calendario molto complicato, dicevi un po' di cose, no? Ma dentro cosa pensavi? Il calendario ha tutta questa importanza o è vero che passato il rodaggio comunque devi giocare contro tutti? Ma io non, sinceramente non ho mai guardato i calendari, anche perché non davo così un'importanza esasperata se avessi dovuto incontrare la più forte del campionato, la prima o la seconda, ma mi rendo conto che soprattutto per le piccole partire bene è importante. Se sì, una piccola incontra nelle prime 5 giornate 4 big e magari può capitare che di fare un punto o neanche uno e dopo 5 giornate e l'allenatore di quella piccola penso che sia già in grandi difficoltà. E allora, perché da noi le polemiche sono all'ordine del giorno, perché sono gratis, per due partite. E allora dico, ecco, per le piccole sicuramente sì, per le grandi un po' meno, insomma. Quindi lo show di De Laurentiis poteva risparmiarselo? Credo di sì, io non so a cosa sia dovuto, cosa si aspettasse. Poi, insomma, dopo insomma, la bagarre che c'è stata negli anni scorsi, l'attenzione a tutto, ai sorteggi, credo non ci siano situazioni pilotate adesso, per quantomeno in questo momento. Quindi se è capitato così, a detta sua sfortunato, ma non penso ci sia sotto un disegno oscuro per poter mettere il Napoli fuori dai giochi già dall'inizio. No, ma non ci credo neanche se lo vedo, perché mi sembra abbastanza segmentali. Ma comunque, Aldo, invece il mercato, questo mercato immobile, impantanato, non ha cambiato nulla nei valori. L'Udinese un po' più debole, il Napoli un po' più forte con Hiller, la Roma sempre un po' confusa, mi pare, tra presente e passato. Mi sembra che la prima vera grande incognita, non so se condividi, sia Gasperini all'approccio con la grande piazza e con le superstar. Credo che l'incognita vera sia quella, o no? Sì, io penso che il compito di Gasperini sia proprio più all'esterno, forse anche all'interno di se stesso, quindi deve probabilmente forzare quello che è stato il suo cammino fino ad ora e cercare di adattarsi lui a una situazione, credo, per lui nuova. Mi rendo conto anche che ha dei giocatori davanti che anche se lui, vedo sui media, cerca di smussare così gli angoli, cerca di dare il contentino, perché obiettivamente vedo difficoltà di Schneider in un progetto Gasperini. Non so se da centrocampista possa adattarsi, e non credo, perché lui ha così in testa il gol, il tiro a rete e la fase offensiva che dietro non ci può tornare, sugli esterni neanche, quindi per Schneider la vedo un po' difficile. Sì, poi si tratta anche di capire Eto'o in quale ruolo vorrà giocare e se Gasperini avrà la forza e il carisma necessari per convincerlo a giocare dove può essere più funzionale la squadra, vicino ad una prima punta come può essere Milito o Pazzini. Questo mi sembra un altro sì, bel interrogativo. Di solito sono su 3-4-3, che è quello, il marchio di Gasperini è quello, poi si può adattare con la difesa a 4, questo è vero, ma una punta sulla centrale, Milito è un centrale, Pazzini è un giocatore emergente, un azzurro, fortissimo, centrale anche lui, se tu vuoi giocare nel mezzo, poi la vedo insomma un po' complicata. A proposito di marchi, Aldo, per chiudere, quello di Conte sappiamo bene il 4-2-4, che mi sembra tanta roba. Secondo, leggevo oggi Mario Sconcerti su Corriere della Sera, secondo Sconcerti servono Vargas e un grande difensore centrale a questa Juventus. Secondo me serve sempre un giocatore di grande personalità internazionale in grado di essere leader e volendo anche parafulmine di un ambiente che comunque è sull'orlo di una crisi di nervi. Beh, quindi come difensore centrale, perché oramai i ruoli di centrocampo sono affidati a Pirlo e a Vidal. Ecco, sugli esterni Krasic secondo me ha la capacità per poter fare la fase offensiva, forse quella difensiva un po' meno, ma Conte ci sta lavorando. A sinistra, ecco, Marchisio lì da quelle parti lo vedo un po' sprecato, non lo vedo ad altissimo livello, è un giocatore bravissimo a giocare nel mezzo, quindi da quelle parti secondo me come mancino naturale condivido l'opinione precedente che la Juventus deve comprare qualcosa di importante e poi forse un attaccante, ma attaccanti ne ha secondo me abbastanza. Beh, però Vucinic è un giocatore che mi fa impazzire. Vucinic è un giocatore che se riesce a calarsi nella realtà di Conte, che è un allenatore abbastanza rigido, abbastanza che dà dei diktat, mi sembra abbastanza invece Vucinic contrario a queste forme, a queste gabbie anche di comportamento, se riesce a moderarsi può diventare un giocatore importantissimo anche nell'economia del gioco di Conte. Grazie Aldo. Ciao a tutti. Grazie come sempre, grazie. Grazie ad Aldo Serena. Mentre gli ascoltatori che hanno molta più fantasia di me dicono che Raiola è stato avvistato in Arla e targata Londra con De Laurentiis aggrappato ai fianchi e tutto torna secondo Marco da Bologna. Allora, scrive Carlo da Bergamo, Raiola non si trova, Balotelli non danno la moto, De Laurentiis scappa in moto, ne deduco che Balotelli va al Napoli tramite Raiola e porta dietro De Laurentiis, cioè sul sellino posteriore, scrive Carlo. Molti ascoltatori chiedono a gran voce via SMS un po' di basket in questo programma, figuratevi con me, sfondate una porta aperta, domani vi prometto ne parliamo un po', anche perché insomma ne ho voglia io, quindi siamo tutti più contenti. C'è una notizia invece di basket che è appena stata ufficializzata: la stagione 2011-2012 di basket parte il 1 ottobre a Forlì con la Supercoppa Siena-Cantù, quindi tanto ci prepariamo agli europei di fine agosto e primi settembre, e già lì sarà una bella spremuta di adrenalina con l'Italia a caccia di un posto per le Olimpiadi, tra l'altro, e poi stagione che comincia abbastanza tardi. Pato ha bisogno di qualche quattrino, mi pare, perché dunque leggo qui: l'avvocato di Stefani Brito, ex moglie del milanista, dice: non ha mai scucito un centesimo per lei, proporremo la prigione per inadempienza per Pato, ma un tribunale di Rio dà ragione al giocatore sull'assegno di mantenimento, assegno di mantenimento che non è bassissimo, eh. Due lirette costerebbe a Pato, qualora pagasse questo divorzio, circa 22.000 euro al mese. Giovanni Massa Carrara, buongiorno. Buongiorno, no, io sono un tifoso della Juventus, condivido come i precedenti ascoltatori la simpatia verso De Laurentiis, però noi già ci facciamo molto e abbiamo fatto molto del male da soli, per cui non credo neppure, qualora si ravvisasse un'agevolazione del calendario, che sarebbe poi un grande vantaggio. Sì. Non so io qualcosa abbia ispirato questa. No, ma guardi Giovanni, probabilmente, come è stato detto prima, a De Laurentiis era stato promesso qualcosa che poi io non, negli altri paesi, Inghilterra, Spagna, quelli che contano, insomma, non vedo grosse polemiche intorno all'intreccio tra calendari e Champions League. Sono un sacco di partite di alto livello da giocare in pochissimi giorni, perché le date dei calendari sono fitte come un bosco, e dunque questi intrecci possono capitare. Poi continuo a pensare che l'importanza del calendario sia oggi, che è il 28 agosto, siamo sotto l'ombrellone, e ricordo insomma il calendario è uno dei grandi protagonisti dell'estate, insieme al cornetto, naturalmente, al gelato, ai giochi sulla spiaggia, si va a comprare la Gazzetta o Tutto Sport, credo, Sport, quel giornale che volete, si ritaglia il calendario e si fantastico un po' intorno a quello. Però non vedo una grandissima, sto con Aldo Serena che ha un pochino di esperienza, che dite, non vedo tutta questa centralità del calendario nel determinare gli esiti di una stagione, perché per le grandi sappiamo che il rodaggio è complicato, soprattutto nei confronti con le piccole che partono forte. Passato il rodaggio, giochi con uno, giochi con l'altra, tanto tutte le devi affrontare, quindi mi sembra abbastanza profumato, perché ci siamo divertiti. No, però mi sembra molto fumo. No? Economia generale, in relazione a quello che ha detto lei sugli altri club europei, può anche avere ragione, ma poi di per sé alla fine ha il valore che ha, insomma, il calendario. Se, in realtà, ha detto bene, mette molta pressione sui giocatori, probabilmente, aggiungo io, forse la mette anche sugli arbitri, perché alla fine bisogna vedere come vanno appunto queste ma prime. A mio parere la mette molto sulla sua squadra la pressione, perché io vedo, insomma, secondo me la stagione del Napoli sarà molto complicata, perché come ho detto prima, la legge immutabile dello sport dice che chi fa una scalata ci mette molta meno fatica per arrivare in alto che poi per riconfermarsi con i venti che tirano, e mi sembra che il Napoli sia pericolosamente esposta a questi venti. Dunque De Laurentiis, ripeto, ha fatto molto marketing, intelligente, riuscito se vogliamo in quest'estate, però ha esposto Mazzarri e il suo Napoli a grandi pressioni, di questo resto convinto. Anche perché ci sono delle conferme proprio tecniche che devono essere verificate sul campo. Io non credo ancora, nonostante lo ritenga uno straordinario giocatore, non credo ancora oggi che Cavani possa essere stabilmente un principe da classifica marcatori. Non credo che possa stabilmente essere un giocatore da oltre 20 gol a stagione. Questa è una delle prime incognite, ma ce ne sono altre, le ho dette prima così grosso modo. C'è, insomma, Mazzarri, la cui posizione dopo la Manfrina della scorsa stagione è un po' indebolita, c'è Hamsik che ha detto voglio lasciare Napoli e andare in una grande squadra e poi resta lì, come l'avrà presa al di là delle dichiarazioni di facciata io non lo so, e ci sono, ce ne sono di incognite. Antonio Milano, buongiorno. Buongiorno Carlo, apro una parentesi poi le dirò l'argomento, no, apro che... anch'io, mi scusi ma mi fa troppo ridere. Trovato Raiola era lo scooterista che ha dato un passaggio a De Laurentiis, questo lo scrive un ascoltatore migliore in campo tra i messaggi infatti di oggi, infatti aveva il casco quindi potrebbe bravo andare. Bravo, è passato di lì non per caso e magari sono andati a prendere Balotelli. Ecco, dica. Allora il Milan l'anno scorso nelle prime quattro giornate col Cesena perse e col Catania pareggiò in casa, sì. Questo una parentesi, sì, sì. Allora io faccio una proposta, io faccio il tassista a Milano, sì. E tempo fa caricai da via Rosellini i due dipendenti della Lega, mm-hmm. E parlando con loro le proposi una cosa che loro l'hanno pagata, le hanno dato i soldi? Sì, m'han pagato. Ah, bene. Allora, dicevo, se Milan-Napoli quest'anno cade alla terza, sì. Perché non fare cadere al girone di ritorno Milan-Napoli alla decima? Non so se mi sta capendo. Fare no. Due calendari. E perché? Perché vengono un attimino più, cioè c'è meno malizia, diciamo. No. Cioè praticamente come, per me sarebbe molto più equilibrato, potrebbe capitare il derby alla terza di andata e capitare poi il derby alla decima di ritorno. Sì. Perché no? Ma non lo so, sinceramente posso dire la verità, non ci ho mai pensato, secondo me il calendario va bene così, a specchio, prima di andata, prima di ritorno, seconda andata, seconda di ritorno, cioè non, io continuo a dire che non va così sopravvalutata l'importanza del calendario. Torno a ripetere, tutti devono giocare contro tutti, poi è chiaro che la differenza la faranno e lo stato di forma e le squalifiche, gli infortuni, cose al momento discretamente imprevedibili, dunque non vedo tutta questa ansia intorno agli incroci del calendario, ma non vedo neanche l'esigenza, ma anche perché insomma non ho mai sentita nemmeno tra le proposte, ne abbiamo sentite di bizzarre intorno al calcio non soltanto italiano, questa francamente è la prima volta che la sento, non capisco quale possa essere la necessità di un artificio di questo tipo. Io invece saluto e ringrazio per chiudere da Shanghai Stefano Arcobelli, amico e inviato della Gazzetta dello Sport laggiù. Ciao Stefano. Buonasera a tutti, anzi buongiorno per voi. Buongiorno a te, stiamo aspettando tutti insieme la pallanuoto che sta per scendere in acqua. È corretto usare la parola delusione oggi per la 4x200 femminile? Ma guarda, l'obiettivo era minimo, nel senso che l'obiettivo era entrare tra le prime 12, per una manciata di centesimi abbiamo fallito la qualificazione olimpica, ma non avevamo aspettative, diciamo, forse neanche né di finale, ovviamente neanche di medaglie, per cui probabilmente questi centesimi abbiamo buttati via perché a parte Federica che fa il suo e comunque avrebbe avuto forse di mare poco anche lei stessa, diciamo le altre sono due debuttanti, certo. Nella testa la spagnola che si è appena trasferita negli Stati Uniti e quindi ha cambiato metodo di allenamento. Stefano, a tuo parere come torna Federica da questo mondiale? Nel complesso, qual è la sua dimensione? Com'è la sua dimensione? Perché confermarsi chissà è sempre più difficile, farlo in quel modo è un segnale di forza, di superiorità schiacciante, soprattutto nei 400, perché nei 200 è stato più sofferto, però anche in quel caso nell'ultima volta ha dimostrato veramente che in questo momento è la migliore al mondo. Per chiudere, si sta oscurando la stella di Michael Phelps, che mi sembra la grande notizia di questo mondiale al di là degli azzurri. Sì, è la conferma che diciamo Locke batte Phelps 2-0 per usare un termine calcistico ed è un segnale forte per lui stesso, per l'allenatore che probabilmente non riesce più a trovare le corde giuste per stimolarlo ad allenarsi umilmente come faceva fino a Pechino e quindi probabilmente certe sconfitte sono salutari, quindi sono convinto che Michael tornerà ai giochi di Londra protagonista. Per qualche altro tipo di obiettivo, non certamente quello di dominare 4 o 5 gare come ha fatto ad Atene, come ha fatto a Pechino. Il problema di Michael adesso sarà diciamo riuscire almeno a dominare una o due gare e io intravedo questo dominio nei 100, nei 200 farfalla che mi sembrano le specialità più facili per lui e se per esempio si riuscisse a confermarsi sarebbe comunque un grande obiettivo. perché nessun uomo al mondo nella storia delle Olimpiadi ha vinto tre ori in tre edizioni diverse dei giochi, quindi sicuramente anche questo potrebbe essere un'altra gemma a una carriera veramente incredibile. Certo. Stefano, ti ringrazio, grazie davvero. Stefano Arcobelli, inviato della Gazzetta dello Sport, e tutti insieme adesso ci trasferiamo davanti alla TV a vedere Italia-Croazia, semifinale di pallanuoto che inizia fra tre minuti. Vi ringrazio anche per i moltissimi e divertentissimi messaggi. Devo dire, Marcello, trovato Raiola, era in lega al sorteggio calendari travestito da De Laurentiis. Ci sentiamo domani dalle 2 alle 3 per l'ultima puntata prima della pausa estiva. Franco Piantanida in redazione, Mauro De Angeli in regia. Ciao a tutti.